Effetto Mondo. I mean, that was his baby. He loved his little girl. Roxy found out about George's death when she got a phone call. She then got on the internet and saw the video. Buongiorno Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno, la voce che abbiamo sentito è la voce di Roxy Washington, che è la compagna di George Floyd e mamma della sua bambina più piccola, che ha 6 anni, tra l'altro si chiama Gianna, detta Gigi. E qui vabbè, sta dando tantissime interviste, si è un po' scatenato un circo mediatico tipico, se vogliamo, degli Stati Uniti in questi casi di cronaca. Quindi in questo momento c'è proprio il doppio piano: da una parte la tragedia familiare, e qui lei dice questa bambina, tra l'altro era accanto a lei, era proprio la little girl di suo papà, e poi dice questa cosa inquietante di aver saputo da una telefonata che il compagno era morto, e poi ha visto, lei è andata su internet e ha visto il video, che nel frattempo era già andato virale su internet. Quindi, a parte questi diciamo particolari, poi tra l'altro ieri c'è stato un primo funerale con un grande memorial dove è intervenuto anche un reverendo molto famoso nero negli Stati Uniti, è l'apertura di tutti i giornali, compreso il Wall Street Journal, che però ricorda che siamo alla decima notte di disordini, perché intanto appunto i disordini e i coprifuoco continuano. Sul Wall Street Journal questa notizia è affiancata a quella delle manifestazioni invece a Hong Kong, dove si commemorava l'anniversario del 4 giugno del massacro degli studenti a Tiananmen, e però il tema comunque resta quello della disuguaglianza razziale. Ed è impressionante come, forse potendo prendere un po' di distanza, l'Economist, che è un settimanale britannico, dedica la sua copertina proprio a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, e intitolata The Fire This Time, cioè che potremmo dire: che cos'è davvero il questa volta? Perché questa volta? Perché il paragone viene fatto con le proteste del 1968 sempre per i diritti degli afroamericani, che seguirono in particolare all'assassinio di Martin Luther King proprio quell'anno. Giulia, che altro? Se vuoi, sempre dal fronte americano. Sì, guarda, lì mi ha colpito molto perché Elon Musk è un altro che non ci fa annoiare. Elon Musk, fondatore di Tesla, fresco del grande successo del lancio della sua navicella, della SpaceX, verso la Stazione Spaziale Internazionale, e adesso se la prende con Jeff Bezos. La notizia è sulla prima pagina del Wall Street Journal. Elon Musk invita Jeff Bezos a fare quello che in realtà in molti hanno chiesto negli anni passati, cioè che Amazon, che è diventata questo colosso che rischia di monopolizzare e anche di, naturalmente, di fare del male a chi non ha quelle dimensioni in tanti settori merceologici, dovrebbe essere spezzata almeno in due. Perché dice questo Elon Musk? Tra l'altro, ricordiamo, la stessa cosa era stata chiesta a Microsoft tanti anni fa, poi Bill Gates ha fatto il passo indietro, che sappiamo, è stato chiesto anche a Google di fare una cosa del genere, cioè di separare alcune attività. Io non credo che Bezos ascolterà Elon Musk, dovrebbero intervenire semmai le autorità americane, però lo spunto è che sapete che su Amazon si può fare il self-publishing, cioè Amazon può pubblicarti un libro, in generale non mette paletti, però è stato proposto a Jeff Bezos questo libro che in un certo senso minimizzava un po' gli effetti del coronavirus e la pandemia, facendo dei confronti con tutte le altre cause di morte. Bezos si è rifiutato di pubblicarlo e Elon Musk ha detto: ecco, vedi, sei un monopolista fatto e finito, e lo dimostri con queste scelte e naturalmente con questo gigantismo che caratterizza Amazon. Giulia, dove vogliamo andare? In Gran Bretagna, dove ci sono anche nuove rivelazioni sul caso di Maddie? Sì, naturalmente Financial Times in prima pagina mette la notizia economica principale, che è quella di cui si è parlato tanto anche a Radio 24, cioè il pacchetto di quantitative easing deciso dalla BCE. Però, come già ieri, che ieri era la notizia dell'arresto di questo pedofilo tedesco in Germania, e oggi si scopre che innanzitutto alcuni giornali un po' scandalistici come il Daily Mail dice che però è stato arrestato, pubblica anche la foto di questo signore tedesco di 43 anni, e però potrebbe essere presto rilasciato su cauzione, dopodiché naturalmente sarebbe difficile magari riportarlo in carcere. È una vicenda che ha, di cronaca, di quelle che aveva colpito molto naturalmente i britannici e non solo, però tornando invece alla cronaca più stretta, c'è il tema del deconfinamento, della fine del lockdown. Dal 15 di giugno, nel Regno Unito non era ancora così, sarà obbligatorio portare la mascherina sui mezzi pubblici e praticamente in qualsiasi altro luogo pubblico. Tu parlavi prima del problema della scuola, sì. Anche nel Regno Unito non è risolto, perché si sta tentando almeno di riaprire le scuole primarie, con però ogni volta che c'è un focolaio magari vengono richiuse, di plexiglass però non si parla. A questo punto ti segnalo, ma la foto è molto circolata anche sui social, il Japan Times e altri quotidiani giapponesi fanno invece vedere la foto di questi bambini nei loro banchi, opportunamente distanziati, e hanno una visiera piuttosto che il plexiglass, sì, che forse sì, sì, sì. È insomma più semplice anche da distribuire una visiera di quelle protettive che non chiudere i bambini nei loculi di plexiglass. Assolutamente, no, il commento anche con il rappresentante sindacale della CGIL è che in quelle condizioni forse si poteva tentare di riaprire anche a fine maggio, a giugno, come è stato fatto altrove, in Germania addirittura senza barriere di plexiglass, in Giappone sì, ma adesso, cioè ragionare per settembre con le barriere di plexiglass sembra come dire un po' un futuro distopico che non ci auguriamo, perché speriamo che poi magari la realtà sia più leggera con noi del presente. Però la scuola aspetterà ancora 3 mesi. Giulia, invece, uscendo da questo tunnel scolastico, dove ci vuoi portare? Ancora in Europa? In Francia. Sì, se vuoi, perché vabbè, Le Figaro in prima pagina ha una foto di un campo di calcio deserto, in uno stadio deserto, e dice il calcio francese in pieno caos, perché sapete che forse credendo di fare una scelta che forse in molti avrebbero seguito, e non è stato così, il campionato di calcio francese è stato dichiarato finito già un mese e mezzo fa. Adesso stanno riaprendo invece gli altri campionati, e quindi ci sono grandi discussioni in Francia. Però il titolo principale, sì, è dedicato al dopo crisi, la pre-crisi, che soprattutto sarà un problema di lavoro e di disoccupazione per i giovani. L'abbiamo già sottolineato altre volte, sarà la generazione proprio quella che si affaccia adesso dopo l'istruzione universitaria sul mondo del lavoro, ma anche quelli che magari non sono andati all'università, e scrivono altri quotidiani francesi economici. Emmanuel Macron sta mettendo a punto un piano economico di rilancio di tutto, insomma, del paese, non di singoli settori, un po' come ha fatto la Germania, e dovrebbe annunciarlo il 14 di luglio, che naturalmente è una data simbolica, certo, la presa della Bastiglia, quindi sarà una cosa coreografica, ma ci sta lavorando con il suo governo. Non ha annunciato task force né stati generali, perché credo che comunque i dati li abbiano tutti i governi sui quali lavorare. E l'editoriale di Le Figaro è l'emploi, punto esclamativo, quindi il lavoro. È questa veramente l'emergenza, e pare anche che i sindacati stiano mostrando delle aperture, appunto, che però dovrebbero essere da sempre un interlocutore per le politiche sul lavoro, e hanno preso favorevolmente questa idea di mettersi questa priorità, cioè più che aiuti a pioggia, per esempio sono previste degli sgravi enormi per tutti quelli che assumeranno ragazzi dai 18 ai 25 anni, praticamente per il primo anno, grazie a questi sgravi fiscali, al datore di lavoro costerà quasi niente a fare appunto queste assunzioni, ma è una delle possibilità. Sicuramente da qui al 14 di luglio avremo altre sorprese. Giulia, invece in Brasile non si riesce a uscire dal tunnel, il coronavirus non molla. Sì, abbiamo sentito nei giorni scorsi Bolsonaro con queste dichiarazioni veramente impressionanti, a una persona che appunto chiedeva un commento, lui diceva tutti dobbiamo morire, quindi c'è chi muore di coronavirus, ma tutti dobbiamo morire, sembrava una dichiarazione medievale da inquisizione o quasi. Il Correo Brasiliense oggi titola la tragedia del Brasile, il Covid-19 uccide una persona al minuto, perché il bilancio di ieri è di 1473 morti, e appunto dividendo per i minuti che ci sono in una giornata abbiamo superato anche questa idea, questa soglia psicologica di un morto al minuto. E vedremo, perché tra l'altro è tutta l'America del Sud che ha questa, la seconda ondata forse noi non la vedremo, e loro invece stanno vedendo adesso questo tsunami, e quindi insomma vediamo nei prossimi giorni cosa succederà. Grazie Giulia, ci fermiamo qua per oggi con questa puntata di Effetto Giorni anche con te. Noi ci risentiamo naturalmente lunedì prossimo. Un ringraziamento a Filippo Regi in regia, Laura Faggin in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi l'auguro di una buona giornata e buon weekend.